Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Assume grande significato a questo riguardo l'approvazione alla Camera dei Deputati alla unanimità del provvedimento che assicura un futuro di dignità e di speranza ai figli delle donne uccise dai propri compagni o ex compagni. È un'emergenza sociale, tragica e inquietante. Mi auguro che si possa giungere rapidamente ad un'approvazione definitiva di questa legge. Oggi avete sentito il presidente Mattarella, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, a proposito della giornata internazionale delle donne, ha parlato di questo provvedimento che sta facendo il suo iter nel Parlamento italiano per tutelare gli orfani, tantissimi orfani delle tantissime donne vittime di femminicidio, di cui che Mattarella ha definito un'emergenza sociale. Ne parleremo di questo 8 marzo, veramente diciamo celebrato in modo inconsueto in tutto il mondo, in oltre 40 paesi del mondo, con questo sciopero globale. Sentiremo anche diciamo pareri contrastanti sul fatto, sullo strumento che si è utilizzato per dare più impatto a questo 8 marzo planetario, e poi ci collegheremo ancora con gli Stati Uniti, perché va avanti questa saga del diciamo dei contrasti tra il presidente Trump e i servizi segreti. Oggi è stata chiesta una un'inchiesta federale sulla CIA, soprattutto dopo le rivelazioni di ieri di WikiLeaks, che ha annunciato la pubblicazione di migliaia di documenti segreti della CIA, che appunto spierebbe un po' tutti attraverso anche i smartphone e anche gli smart TV, le televisioni intelligenti, insomma, diciamo così. E poi torneremo di nuovo su un altro tipo di saga, che è quella dei rapporti tra Italia e Unione Europea, soprattutto sull'immigrazione, visto che l'Unione Europea torna a bacchettare l'Italia sui migranti. Per i vostri commenti e le vostre osservazioni ci sono sempre due canali per le vostre interazioni, che sono la pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi giorno e notte, oppure il numero per messaggi e WhatsApp, che è 349-238-6666, 349-238-6666. Quindi tanti temi anche questa sera, ma prima di tutto, come sempre, il riassunto della giornata. Stranieri ricchi, l'Italia punta ad attirarli con una tassa fissa da 100.000 euro per risiedere nel nostro paese, la norma è operativa da oggi. Stati Uniti, dopo l'annuncio di WikiLeaks, è stata aperta un'indagine federale sulla fuga di documenti della CIA. Immigrazione, critiche dell'Unione Europea all'Italia sui migranti. Gentiloni replica invitando l'Europa a non essere distratta su un problema che neppure Mago Merlino dice saprebbe cancellare. La giornata internazionale delle donne, scioperi e manifestazioni in tutto il mondo. Il presidente Mattarella chiede una società più equa e parla del femminicidio come emergenza sociale. L'inchiesta Consip, il ministro Padoan blinda l'amministratore delegato Marroni, non si contempla la decadenza, assicura, e la procura di Roma dà parere negativo alla scarcerazione dell'imprenditore Romeo accusato di corruzione. Francia, il Consiglio di Stato respinge la richiesta delle autorità sanitarie di Marsiglia di interrompere i trattamenti alla piccola Marwa completamente paralizzata e incosciente. E in Gran Bretagna, corsa della solidarietà per salvare il piccolo Charlie, un neonato di 7 mesi affetto da una rara patologia. I dottori preferirebbero interrompere le cure, ma i genitori si sono rivolti ai giudici. Torino, un operaio rientra in fabbrica dopo un trapianto di fegato ma viene licenziato. I colleghi scioperano. Addio l'etologo Danilo Mainardi, una vita spesa per la natura, divulgatore fra i più noti, presidente della Lipo, aveva 83 anni. Scoperti antibiotici e aspirine nei Neanderthal, un mix di piante di cui conoscevano bene le proprietà curative. E partiamo quindi dal provvedimento con cui l'Italia punta ad attrarre i ricchi stranieri, come fanno già Spagna e Gran Bretagna. Chi verrà ad abitare nel nostro paese potrà pagare una tassa fissa da 100.000 euro l'anno sui redditi percepiti all'estero. Paperoni cercansi. Il fisco italiano gioca la carta della tassa piatta, la flat tax per chi preferisce l'inglese, per attrarre grandi capitali stranieri, in particolar modo quelli in uscita dal Regno Unito dopo la Brexit. Un'imposta fissa da 100.000 euro sui redditi prodotti all'estero, a prescindere di quale sia il loro importo, per chi sposterà la residenza in Italia. Diventa operativa, grazie al provvedimento delle entrate, il nuovo regime agevolato per chi si trasferisce nel nostro paese. La chance riguarderà i contribuenti persone fisiche, quindi non le società, a condizione che non siano stati residenti in Italia in almeno 9 dei 10 periodi in imposta che precedono l'inizio del periodo di validità dell'opzione, già perché bisognerà manifestare la scelta all'interno della dichiarazione dei redditi. Anche i familiari potranno accedere alla flat tax, che nel loro caso sarà pari a 25.000 euro, sempre a condizione che si sposteranno in Italia. Giovanni Parente, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E torniamo anche al dibattito sulla stretta all'uso dei voucher. I voucher potranno essere utilizzati solo dalle famiglie e dalle imprese senza dipendenti per retribuire il lavoro occasionale. E questo è l'orientamento del governo, impegnato a definire la stretta sui buoni lavoro da modificare con il testo unico in via di definizione in Commissione Lavoro della Camera. L'idea di base è ripristinare le norme della legge Biagi, quindi verrà ritoccato anche il tetto massimo di spesa assegnato ai committenti e ridotto da 7.000 a 5.000 euro. Studenti, pensionati, persone con disabilità o in situazioni di disagio, disoccupati ed extracomunitari senza lavoro da oltre 6 mesi e la platea dei lavoratori che potranno essere retribuiti con i voucher, escluso l'uso dei buoni nella pubblica amministrazione. La bozza definitiva del provvedimento potrebbe essere presentato domani in Commissione Lavoro dalla relatrice Patrizia Maestri, un provvedimento che punta a disinnescare il referendum della CGIL che propone di eliminare i voucher modificati dal Jobs Act. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora negli Stati Uniti, dove è stata aperta un'indagine penale federale dopo le rivelazioni contenute nei documenti pubblicati ieri da WikiLeaks sulle operazioni di spionaggio della CIA. Il portavoce della Casa Bianca ha detto che il presidente Trump è estremamente preoccupato per le rivelazioni di WikiLeaks se si rivelassero vere, sostenendo che la fuga di notizie riguardanti la sicurezza nazionale dovrebbe preoccupare tutti gli americani, ma senza però confermare se effettivamente queste l'autenticità, insomma, del contenuto del documento di WikiLeaks. Poi torneremo a parlarne collegandoci direttamente con gli Stati Uniti. Nel frattempo il capo dei gesuiti, padre Arturo Sosa, in un'intervista all'Ansa se la prende anche con Donald Trump e afferma che l'avanzare dei populismi crea il rischio di tornare a regimi totalitari dittatoriali. Uno spettro si aggira tra i paesi democratici, è il populismo dilagante che comporta il grave rischio di tornare a regimi autoritari e dittatoriali. L'allarme è lanciato da una delle voci di maggior peso della Chiesa Cattolica nel mondo, il superiore generale dei gesuiti, il venezuelano padre Arturo Sosa Abrazal, eletto da pochi mesi alla guida della grande congregazione religiosa da cui proviene anche Papa Francesco. E come il Papa guarda con timore all'annuncio della costruzione di un muro al confine con il Messico da parte del presidente americano Donald Trump e al suo bando contro i cittadini di 6 paesi musulmani. Si tratta, dice, di atti contro i valori degli americani e i valori cristiani, così come la possibilità di dividere i figli delle madri entrate irregolarmente negli Stati Uniti, che, dice ancora, è contro la radice della società americana e dell'umanità. Insomma, anche per i gesuiti la politica dei muri, propugnata da Trump, ma che trova molti esempi anche in Europa, è da una parte inumana e dall'altra inutile e aumenta le tensioni. La presa di posizione di Sosa è destinata ad avere una forte eco negli Stati Uniti, dove i gesuiti da sempre sono molto rispettati e controllano alcune delle più prestigiose università e scuole del paese. Carlo Marroni, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Città del Vaticano. Ora parliamo di immigrazione perché il Consiglio d'Europa bacchetta l'Italia sui migranti a partire dalla custodia legale per i minori non accompagnati, ai rimpatri volontari, alle espulsioni forzate, un sistema debole, dice l'Unione Europea, che rischia di incoraggiare più arrivi. Il Presidente del Consiglio Gentiloni però replica invitando l'Unione Europea a non essere distratta su un problema che neppure, pure dice Mago Merlino, saprebbe cancellare, e spiega che da Bruxelles a Roma si attende più risorse nella gestione degli arrivi dalla Libia. Più tardi poi parleremo di questa annosa questione dibattuta tra l'Unione Europea e l'Italia sull'immigrazione. E ora occupiamoci della giornata internazionale delle donne, l'8 marzo, celebrato in tutto il mondo, in mattinata la cerimonia al Quirinale. Più lotta che festa in tutto il mondo. Donne in piazza a Londra, Madrid, Parigi, Dublino, in Cina, in Giappone e anche a Mosca, dove è festa nazionale l'8 marzo dal 1965 e dove un sit-in di donne non autorizzato lungo il Cremlino si è concluso con 7 fermi. A Kiev attaccato il corteo femminista, in America alle donne l'augurio di un Trump che le ringrazia esprimendo enorme rispetto. Al Quirinale è una cerimonia dedicata alla pace. Il capo dello Stato ha sottolineato quanti ostacoli, incomprensioni e pregiudizi le donne debbano ancora affrontare, definendo il femminicidio un'emergenza sociale. Sono ben consapevole che le donne, non soltanto in Italia, danno alla società più di quanto ricevono in cambio. Ciò nonostante, quella delle donne è un'azione tenace, risoluta, paziente e molto spesso coraggiosa. Anderita Lambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E non sono mancati i disagi per lo sciopero dei mezzi pubblici in concomitanza con lo sciopero delle donne, soprattutto a Roma, ma per tornare ai temi della giornata mondiale delle donne, quello per esempio della difficile conciliazione tra lavoro fuori casa e famiglia, sentiamo Marcella Panucci, direttrice generale di Confindustria, intervistata da Sebastiano Barisoni. Nella mia esperienza in realtà più che un problema di resistenza maschile, che confesso di non aver incontrato, nel senso che i miei passaggi di carriera sono stati, diciamo, uguali sia quando ho avuto capi donne che uomini, quindi non ho avuto quel problema, però un tema di organizzazione del tempo e di carenza di strutture di assistenza rispetto alle donne, ecco, questo sì, sicuramente c'è stato. Io supplito con il welfare familiare, soprattutto i nonni, ma non tutte hanno questa possibilità, quindi questo è un problema secondo me molto molto serio. Probabilmente in alcuni casi c'è un problema di mentalità e di, diciamo, sfiducia, pregiudizio nei confronti delle donne, però molto spesso c'è un problema di costi, nel senso che laddove la donna ha delle difficoltà a gestire, diciamo, la propria famiglia e il lavoro, è evidente che per un datore di lavoro può essere più conveniente puntare su un uomo. Il problema è, anzi, la questione è proprio evitare che questo accada, nel senso che si punti su una donna o su un uomo, ma indipendentemente da difficoltà organizzative o logistiche. Semplicemente se uno è più bravo dell'altro deve andare avanti. Però la questione è proprio eliminare gli ostacoli che impediscono che entrambi i generi abbiano le stesse opportunità. E poi l'inchiesta Consip, il ministro Padoan blinda l'amministratore delegato Marroni della Consip, dice non si contempla la sua decadenza, e la Procura di Roma dà parere intanto negativo sulla scarcerazione dell'imprenditore Alfredo Romeo accusato di corruzione in questa inchiesta. E sentiamo a proposito proprio dell'inchiesta Consip che cosa ha detto l'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi nella puntata registrata di Porta a Porta. Si vada a sentenza, però non mi metta in mezzo alla vicenda giudiziaria, perché mio padre ha un avvocato. Si difende, racconta che cosa è successo, è assolutamente certo di essere innocente e fa la sua parte. E sentiamolo anche sul governo Gentiloni. L'importante è che si facciano le cose, e sotto questo profilo la battaglia europea sarà importantissima. Ora di nuovo all'estero, Afghanistan, spietati kamikaze dell'ISIS travestiti da medici hanno assaltato oggi l'ospedale di Kabul, l'ospedale militare, tenendo testa per 6 ore le forze di sicurezza afghane in un braccio di ferro conclusosi, secondo il Ministero della Difesa afghano, con l'uccisione di oltre 30 persone e il ferimento di altre 70. E poi in Guatemala si contano almeno 19 morti in un incendio scoppiato in un orfanotrofio, a renderlo noto ai pompieri giunti sul posto. Le cause dell'incendio non sono state ancora chiarite. L'orfanotrofio è in una cittadina non lontana dalla capitale, che è Guatemala City. E nel pieno dibattito sul biotestamento in Italia, da Inghilterra e Francia arrivano due storie di bambini piccolissimi cui i genitori lottano per non staccare la spina. Sono storie che dividono, spaccano l'opinione pubblica e lasciano interrogativi irrisolti, quelle di Marva e Charlie, che arrivano rispettivamente da Francia e Inghilterra. Colpita da un virus a fine settembre, Marva, 15 mesi, è completamente paralizzata e incosciente, ricoverata in un letto d'ospedale a Marsiglia. Per i medici non c'è più niente da fare, ma la famiglia si rifiuta di staccare la spina. Con una decisione attesissima, il Consiglio di Stato francese si è pronunciato a favore del mantenimento dei trattamenti, come chiesto dai genitori, respingendo la richiesta di interruzione presentata dalle autorità sanitarie, richiesta accolta in precedenza da una sentenza di primo grado del Tribunale. Quasi identica la storia di Charlie, 7 mesi, affetto da una patologia molto rara, ricoverato nel maggiore centro pediatrico di Londra, dove i dottori vorrebbero staccargli la spina, ma i genitori si sono opposti. Sul caso dovrà pronunciarsi il mese prossimo l'Alta Corte di Londra. Nel paese, intanto, è in atto una corsa della solidarietà per raccogliere 1 milione di sterline e poter sottoporre il piccolo a una terapia sperimentale negli Stati Uniti. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora a Malta, dove è crollata per un'ondata di maltempo la finestra azzurra, l'iconico arco naturale che si affacciava sul mare dell'isola di Malta, che varie volte ha fatto da sfondo a varie serie televisive, tra cui Il Trono di Spade. Profonda tristezza è stata espressa in un tweet dal premier maltese Joseph Muscat. E adesso di nuovo in Italia, con questa vicenda amara in provincia di Torino che ha colpito un operaio. L'uomo, tornato in fabbrica 8 mesi dopo un trapianto di fegato, non ha più trovato il posto di lavoro. Antonio Forchione, 55 anni, operaio della Oerlikon Graziano di Rivoli Cascine Vica, lunedì ha ricevuto la lettera di licenziamento. Non posso più svolgere la mia mansione precedente, l'azienda non ha trovato nulla da farmi fare e mi ha mandato via, ha spiegato l'operaio. I suoi colleghi hanno reagito oggi con uno sciopero di 2 ore su tutti i turni. Poi un incidente ferroviario in Calabria, un treno regionale che ha investito questa sera ha soverato 3 persone, una delle quali è morta, e adesso arriva la notizia che è un 13enne che è rimasto ucciso. Gli altri 2 feriti sarebbero anche loro minorenni. I 3 stavano camminando lungo i binari e nel momento dell'impatto stavano attraversando un ponte. E poi l'addio all'etologo Danilo Mainardi. Danilo perché l'ho avuto più volte, ho intervistato più volte e aveva sottolineato tante volte che si chiama l'unico Danilo che c'è. È morto questa mattina a Venezia, lo rende noto la LIPU, associazione animalistica di cui era stato presidente per tanti anni. Era nato il 25 novembre 1933, aveva 83 anni. Mainardi era un volto noto per la TV, molte le trasmissioni a cui ha partecipato, tra cui Quark e Super Quark, o che aveva condotto sul mondo degli animali. E per chiudere, una scoperta: anche i Neanderthal usavano antibiotici e aspirine, o almeno i loro analoghi nella preistoria erano dei mix di piante di cui conoscevano bene le proprietà curative. Le tracce sono rimaste imprigionate nella placca dei denti insieme ad altre testimonianze della loro dieta, e quanto rivela uno studio coordinato dall'Università Australiana di Adelaide pubblicato su Nature. Bene, a questo punto il riassunto è completo, almeno delle notizie principali, e quindi tra poco cominceremo a approfondire i vari temi a partire da questa giornata internazionale delle donne, davvero inedita e planetaria. E i vostri messaggi continuate sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. Chiede un ascoltatore, dice: Roberta, come mai tu femminista oggi non stai scioperando? Diciamo, l'ho fatto simbolicamente, si poteva fare concretamente o simbolicamente, lo faccio simbolicamente e ritengo che sia più utile che io ne parli a livello di informazione che non che vada a manifestare, ma sono lì col cuore. E poi altri messaggi, per esempio dice questo ascoltatore Claudio: Roberta, io ho sempre capito che la violenza psicologica o fisica non ha genere, bambini, anziani, vabbè, qua le solite cose generaliste, una donna ogni 2 o 3 giorni è uccisa in Italia e i maltrattamenti sono costanti, leggendo le agenzie ne vedo tutti i giorni di violenze, non è che posso farvi il bollettino tutti i giorni infinito. Poi questo messaggio di Luca dice: che Robby, oggi non festeggio la giornata della donna perché l'ho festeggiata per tutta la vita. Mia moglie è anche in pensione a 42 anni, dopo 2 anni mi ha dato il secondo meraviglioso figlio, ha sempre una donna che l'aiuta in casa, fa politica, abbiamo girato mezzo mondo, l'amo ancora, ti basta? Ho avuto 2 anni fa un ictus, mi sono licenziato per curarmi, ma penso che non riprenderò. Sono felice, dice Luca, sono contenta della tua felicità, siete pure nonostante questo ictus fortunati se potete stare insieme senza badare troppo a lavorare. 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte, tra poco. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Notizie che ora vi ricordo in pochi secondi, c'è un ascoltatore, insomma lo saprò se si dice Danilo Mainardi, tutti gli altri sono Danilo, ma lui si chiamava Danilo, l'ho intervistato tante volte, per cui ecco, non lo ripeto più durante la trasmissione. Invece adesso vi ricordo quali sono i titoli principali. Stranieri ricchi, l'Italia punta ad attirarli con una tassa fissa di 100.000 euro per risiedere nel nostro paese. La norma è operativa da oggi. Stati Uniti, dopo l'annuncio di Wikileaks, è stata aperta un'indagine federale sulla fuga di documenti della CIA. L'immigrazione, l'Unione Europea torna a bacchettare l'Italia sui migranti. Gentiloni replica invitando l'Europa a non essere distratta su un problema che dice che neppure Mago Merlino saprebbe cancellare. La giornata internazionale delle donne, questo 8 marzo, più di protesta che di celebrazioni, ne parleremo tra pochissimo. L'inchiesta Consip, il ministro Padoan blinda l'amministratore delegato Marroni, dice non si contempla la sua decadenza. E poi l'addio all'etologo Danilo Mainardi, una vita spesa per la natura, divulgatore fra i più noti, presidente della LIPU, aveva 83 anni, e scoperti antibiotici e aspirine nei Neanderthal, un mix di piante di cui conoscevano bene le proprietà curative. Sono ben consapevole che le donne, non soltanto in Italia, danno alla società più di quanto ricevono in cambio. Ciononostante, quella delle donne è un'azione tenace, risoluta, paziente e molto spesso coraggiosa. Coraggio, tenacia, pazienza e, va aggiunto, lungimiranza. Sono le caratteristiche necessarie per costruire la pace. Le donne le possiedono. E questo è uno dei passaggi del discorso di oggi del Presidente della Repubblica Mattarella sull'8 marzo. Mattarella ha detto anche un'altra cosa estremamente importante, ha detto: il femminicidio in Italia è un'emergenza sociale, è ora che gli uomini si mettano in discussione, è una cosa che attendiamo da tempo. Comunque oggi festa internazionale delle donne, per l'appunto un 8 marzo di cui in parte abbiamo già anticipato ieri il carattere, che quest'anno, come si dice da più parti, poco celebrativo e molto di proteste, comunque sicuramente inedito, perché, come dicevamo ieri, è stato organizzato questo sciopero globale delle donne, quindi astensione dal lavoro fuori e dentro casa, in più di 40 paesi nel mondo, quindi è veramente un evento planetario, si può dire, avviato in Argentina e in Polonia e poi ripreso da oltre 40 stati, tra cui anche l'Italia. Quindi le donne oggi per 24 ore, già a partire da ieri, si astengono realmente o simbolicamente dal lavoro e anche dal lavoro di cura, quindi della famiglia. E in Italia a organizzarlo è stata la rete Non Una di Meno, che già nel novembre scorso aveva portato nelle strade di Roma più di 200.000 persone contro la violenza maschile sulle donne, poi ha proseguito i tavoli di confronto eccetera, finché è arrivata appunto a organizzare l'8 marzo in Italia con questa iniziativa inedita, a preparare anche i punti del piano nazionale antiviolenza. Ci sono stati anche disagi con gli scioperi nei trasporti, in particolare nella sanità, quindi nel settore privato pubblico, ci sono state varie critiche, ma ieri ci spiegava perché l'importanza di una manifestazione, di uno strumento di protesta di questo tipo. Ieri Elisa Ercoli, che è presidente di Differenza Donna, che è l'associazione che gestisce Centri Antiviolenza. La farò sentire tra pochissimo un passaggio, però intanto vorrei salutare la nostra Maria Latella. Ciao Maria. Sì, ciao. Conduttrice di Radio 24 tutte le domeniche alle 10 con il suo programma Nessuna è perfetta, per l'appunto sulle donne, e poi su Sky con la sua intervista. Maria, intanto che cosa ne pensi di questo tipo di iniziativa quest'anno, che, dicevo, comunque che la si pensi inedito e transnazionale? Penso che sia importante la mobilitazione globale. È la prima volta che le donne percepiscono la possibilità di influenzare globalmente con le loro scelte e le loro iniziative l'opinione pubblica. Noi non saremmo qui a parlarne, Roberta, se non fosse così, se non fosse globale, certo. Se non fosse partita da paesi come la Polonia, dove i diritti delle donne sono gravemente minacciati, non solo delle donne, anche i diritti di noi giornalisti sono gravemente minacciati. Allora, questo è un effetto importantissimo, perché solo una mobilitazione globale può dare davvero peso a una fase di regressione alla quale abbiamo assistito molto, diciamo, passivamente, a mio avviso, con la campagna elettorale negli Stati Uniti, perché il candidato Trump, prima ancora di essere eletto presidente, ha giocato moltissimo sull'eticare gli istinti peggiori nei confronti delle donne, argomenti che facevano facile breccia. Ci siamo scoperte, ci siamo accorte che le donne fanno paura, che la parità di genere fa paura in un momento in cui la torta economica si restringe, la reazione è quella di rispedirci indietro. Quindi molto positivo il mio giudizio sulla mobilitazione globale. Ho delle riserve forti sul fatto che si evochi la categoria dello sciopero. Primo, perché almeno da questa parte, diciamo, del continente, le donne non hanno di che scioperare, perché spesso non hanno lavoro, quindi che ti scioperi è una contraddizione in termini. Tutte le domeniche, a Nessuna è perfetta, lo ricordavi, a Radio 24 io parlo di donne e lavoro, perché l'Italia è ancora un paese dove le donne lavorano poco, nonostante abbiano dei livelli di formazione, di istruzione alti. Quindi, primo, sciopero del lavoro quando il lavoro non c'è mi sembra un po' paradossale. Secondo, perché, come notavo in un commento sul Messaggero, al danno anche la beffa. A Roma e anche a Milano c'è stata, in contemporanea, i sindacati unitari hanno hanno convocato per l'8 marzo lo sciopero dei mezzi pubblici e quindi mi è sembrato, come dire, una suggestiva metafora. Mentre le donne cercano di sbloccare i diritti che qualcuno vuole ribloccare, ci bloccano pure gli autobus e le metropolitane. Senti Maria, io ti farei sentire a questo proposito, appunto ieri sottoponevo questa critica anche, dicevo, a Elisa Ercoli, presidente di Differenza Donna, che gestiscono centri antiviolenza in Italia, che è una delle organizzatrici, perché proprio questo tipo di evento. Sentiamo ieri cosa ha detto Effetto Notte. Il nostro slogan è stato da subito: se le nostre vite non valgono, non produciamo. Perché è dato per scontato tutto il lavoro produttivo e riproduttivo e di cura che le donne dedicano tutto il giorno appunto a tutte queste attività, e invece lo sciopero globale sta proprio a significare una valutazione che vogliamo che venga fatta per la prima volta di quanto invece la nostra produzione, riproduzione e lavoro di cura sia invece un apporto fondamentale all'interno dei nostri territori e dei nostri paesi. In maniera straordinaria questa riprendere strade, la politica è avvenuto in tanti paesi diversi, come diceva lei, in più di 40 paesi, e quindi siamo veramente molto soddisfatte di quello che stiamo facendo. Non solo le organizzazioni che lavorano come noi nel contrasto alla violenza contro le donne e alle discriminazioni di genere, ma tante altre associazioni, ma anche donne singole, gruppi di amiche hanno voluto unirsi anche come private a questo nostro sciopero. Insomma, ha spiegato Elisa Ercoli l'importanza e dice era uno strumento per dimostrare la forza e l'impatto del mondo femminile sulla società, no Maria? Sì, è vero, ha ragione, lo condivido e lo dico anch'io che è importante far vedere che le donne hanno un impatto, influiscono e hanno influenza. Dopodiché va bene tutto quello che serve per far parlare dei diritti mancati, come dicevi, o dei diritti prima che ci vogliono sottrarre, ma non con la categoria un po' vecchiotta dello sciopero. Grazie Maria Latella. Ci sentiamo domenica allora. Grazie. Nessuna è perfetta, come sappiamo, alle 10. Ciao Maria. Grazie, ciao, grazie. E sono tanti i vostri messaggi tra pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio giorno e notte, oppure il numero per i messaggi WhatsApp che è 349-238-6666. Laura scrive sulla pagina Facebook: uno sciopero planetario non si è mai visto, nessuna rivolta ha mai raggiunto un simile traguardo, i suoi effetti saranno dirompenti quando verrà esteso. Francesco dice: temo che queste campagne lasciano il tempo che trovano, ci vorrebbe un mutamento essenziale, una presa di coscienza da maturare giorno per giorno e non solo l'8 marzo. Certo, Francesco, bisogna anche suggerire, diciamo, degli strumenti alternativi. Gaetano dice: così si rischia il paradossale risultato di far detestare con questo sciopero una causa nobilissima, perché i disagi ci sono stati e per molte, dice, il mio autobus non c'era. Enrico: l'abolizione della religione per definizione maschilista e pro sottomissione della donna da ogni luogo pubblico, lo aggiungerei anche privato, dice, come strumento di cambiamento. Chiara: un'assoluta sciocchezza, le cose si cambiano puntando in alto e lavorando alla cultura e alla mentalità. Simone dice: a mali estremi estremi rimedi, ma temo non porterà grandi cambiamenti e gli scioperi sono invisi a molti. Sefora dice: sicuramente non è ciò che porterà alla fine della disparità, ma causare disagi è uno dei modi, causare disagi, dice, uno dei modi più classici di far sentire la propria voce. Europa 24 notte. E anche per quanto riguarda lo spazio europeo ci occupiamo di donne, in particolare di donne e lavoro, con Eleonora Forenza, che è eurodeputata di Altra Europa, gruppo GUE NGL con Tsipras. Buonasera. Buonasera a voi. Buonasera Forenza. Tra l'altro, ieri parlavo appunto di questi dati dell'Oxfam, organismo non governativo internazionale, che dice: cresce la disuguaglianza economica salariale tra donne e uomini e serviranno 170 anni per portarli alla parità. E poi vedo che però anche c'è un rapporto dell'Unione Europea che dice, direi, decisamente sconfortante, a parte quello sulla violenza, che dice: una donna su tre ha subito violenza negli ultimi 5 anni in Europa, ma anche nel mondo. E per il lavoro il 60% dei laureati nell'Unione Europea sono donne, ma le buone notizie finiscono qui, perché le donne guadagnano in Europa il 40% in meno degli uomini. Sì, e il dato è esattamente questo, la differenza di reddito complessiva intorno al 40% e tuttora sussiste un gender pay gap che è superiore al 16%, quindi l'Europa del gender equality è molto lontana dall'essere realmente tale, insomma, e parliamo peraltro di una presenza del lavoro delle donne molto alta nel part-time non volontario. Moltissime donne sono cosiddette working poor, ovvero che rimangono in condizioni di povertà pur lavorando. Insomma, lo spazio europeo è lontano dall'essere uno spazio di uguaglianza reale. Tra l'altro, anche leggevo per quanto riguarda c'è questo gap, questo divario nelle pensioni, stabile, sì, al 38%, quindi da ogni punto, sì, di vista. Esattamente, credo che il movimento straordinario che ha attraversato con lo sciopero globale, il cosiddetto Feminist Strike, più di 40 paesi del mondo, possa dire moltissimo anche sullo spazio europeo. Penso ad esempio alla proposta di un reddito di autodeterminazione che è stato uno dei punti che il tavolo lavoro e welfare del movimento ha messo in agenda, appunto un reddito di base. Io credo possa costituire una premessa, anzi dovrebbe costituire una premessa indispensabile per ripensare la cittadinanza europea. Purtroppo questa Europa dei patti di stabilità e dei trattati stenta a riconoscere un reddito minimo anche come misura di contrasto alla povertà, quindi siamo molto lontani dall'idea di un reddito di autodeterminazione. Mi auguro che la forza di questo movimento possa spingere in questa direzione. Grazie a Eleonora Forenza e buon lavoro allora all'Europarlamento. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice, con voi Roberta Giordano. Quindi abbiamo parlato di molte cose, abbiamo parlato in particolare di questo inedito modo di celebrare l'8 marzo in più di 40 paesi al mondo, questo sciopero planetario delle donne, in molti casi concreto, in alcuni casi simbolico, e comunque diciamo una manifestazione così politica come non si vedeva da decenni e decenni in tutto il mondo, e poi di questa vastità anche nello spazio europeo. Abbiamo parlato di questo rapporto dell'Unione Europea sul gap, il divario di stipendi, di trattamenti economici e anche pensionistici tra donne e uomini che continua anche oltre il 40%. Adesso cambieremo argomento, anche se lì insomma in qualche modo c'entra, anche oggi è stato festeggiato anche lì in questo modo l'8 marzo negli Stati Uniti, con cui ci collegheremo tra pochissimo. Intanto però, se non avete acceso puntualmente alle 21, tra poco vi ricordo quali sono le notizie più importanti e anche i vostri messaggi. C'è per esempio Diop da Torino che dice di essere musulmano, dice che non perde mai una puntata di Effetto Notte, infatti fa bene alla salute, e dice che in particolar modo oggi ci teneva a sentirla per dare i suoi auguri a tutte le donne del mondo. Grazie a Diop, cittadino musulmano di Torino. E poi fra le notizie c'è anche questo aggiornamento di questi minorenni investiti da un treno a Soverato in provincia di Catanzaro. Potrebbero essere rimasti vittime di un gioco perverso questi tre minorenni, uno dei quali è morto, uno di 13 anni, investiti questa sera a Soverato. Secondo quanto viene ipotizzato dagli investigatori, tutti i tredicenni volevano farsi un selfie con lo sfondo del treno in arrivo. Insomma, sono cose che non si possono neanche sentire. E quindi poi tutto si è trasformato ovviamente in tragedia. Adesso vi ricordo anche quali sono le altre notizie della giornata. A parte questa tragica, Renzi, che ha parlato porta a porta stasera, quindi in anticipazione della registrazione, si dice scettico sul taglio del cuneo fiscale, e poi dice che sul caso Consip è sicuro dell'innocenza di suo padre. Il modo dell'Italia di attirare con un provvedimento i cittadini stranieri molto ricchi si chiama flat tax, dovrebbero pagare per risiedere in Italia una tassa fissa all'anno da 100.000 euro. E poi le critiche dell'Unione Europea sull'Italia per i migranti, Gentiloni replica, nemmeno Mago Merlino potrebbe gestire un problema così difficile. Le donne in piazza per l'8 marzo in tutto il mondo, più protesta che festa, e Mattarella che dice con loro la società deve essere più equa e parla dell'emergenza sociale che è il femminicidio. Padoa, il ministro dell'economia blinda l'amministratore delegato della Consip, sapete che è in corso questa inchiesta, l'amministratore delegato Marroni dice non si contempla per lui la decadenza. E poi parliamo degli Stati Uniti con il direttore dell'FBI che sfida Trump e dice tanto resto altri 6 anni e mezzo, ne parleremo tra pochissimo. Il Consiglio di Stato in Francia che dice alle autorità di Marsiglia non staccate la spina alla piccola Marva, che ormai paralizzata e sembra incurabile. C'è anche una corsa in Inghilterra per salvare il piccolo Charlie, anche lui sembrerebbe non rispondere alle cure. E l'addio all'etologo Danilo Mainardi, si è spento sorridendo, grande divulgatore, raccontava i segreti del mondo animale. Saluto Marco Valsani, corrispondente del Sole 24 Ore da New York. Caro Marco, buonasera. Allora, ci sono degli sviluppi nella vicenda Wikileaks, perché ieri appunto il fondatore di Wikileaks, Julian Assange, aveva annunciato la pubblicazione di migliaia di documenti segreti della CIA, in cui si dimostrava che la CIA spia un po' tutti anche attraverso strumenti come gli smartphone e come le TV intelligenti, televisori intelligenti. Oggi è stata chiesta dagli Stati Uniti un'inchiesta federale, no? su questa vicenda e anche su quel tipo di spionaggio della CIA. Sappiamo che ci sono giorni di forti contrasti, no? Tra la Casa Bianca e i servizi segreti, perché poi sappiamo che nei giorni scorsi Trump aveva accusato l'ex presidente Obama di aver ordinato delle intercettazioni contro di lui. Il direttore dell'FBI ha smentito dicendo che erano cose che non stavano né in cielo né in terra, e oggi addirittura lo sfida il direttore James Comey, il direttore dell'FBI, sfida Trump dicendo tanto sono qui per 6 anni e mezzo, nessuno mi toglie di qui. A questo proposito, una curiosità, Marco, ma chi nomina il capo dell'FBI? No, è di nomina presidenziale, però il mandato è di 10 anni, quindi diciamo non c'è... salvo che ci siano dei reati degli scandali o che lui voglia dimettersi per lasciare il posto a qualcun altro, non è tenuto ad andarsene. E come ha messo in chiaro oggi, come dicevi, che al momento ha tutta l'intenzione di completare il suo mandato, gli mancano altri 6 anni e mezzo, quindi arrivare ai 10 anni, diciamo, della supererà quindi anche il mandato, a meno che non sia rieletto di Trump, no? Senti, quindi esatto. Adesso invece su questa inchiesta di Wikileaks ancora però non è stata confermata l'autenticità di questi documenti che Wikileaks ha pubblicato della CIA, no? No, non c'è, diciamo, conferma ufficiale, ma questo è prevedibile, perché i servizi segreti americani, l'FBI, la CIA cercano a questo punto di tenere così la bocca chiusa e soprattutto di concentrarsi su quella che è l'inchiesta per stanare la talpa che ha dato che ha dato questo arsenale di armi per la guerra cibernetica in pasto a WikiLeaks e poi al pubblico. Quindi diciamo tutti gli sforzi sono concentrati nell'inchiesta penale che è partita in collaborazione fra FBI e CIA, ma a parte questo non ci sono ulteriori conferme. Comunque i documenti appaiono autentici, nessuno ne ha smentito l'autenticità. Esperti, ex funzionari di intelligence hanno indicato che insomma appaiono sicuramente legittimi, e così una conferma è arrivata anche, se vogliamo, da Edward Snowden, altra grande talpa, diciamo, dell'intelligence americana, che ha twittato dalla Russia, dove in questo momento è rifugiato, che insomma sembra un forte colpo questo inferto da WikiLeaks. Senti, adesso appunto bisognerà capire che cosa viene fuori ulteriormente da questa vicenda. Invece, per quanto riguarda, vedevo anche il bando bis che ha firmato anti-immigrati musulmani, no? Trump, con l'intervento oggi del capo dei gesuiti Arturo Sosa in questa intervista all'ANSA, che ha detto si rischia così di ritorno a regimi totalitari, la politica dei muri anti-immigrati è inumana, inutile e anticristiana. Quindi insomma attacchi da più lati, diciamo, nei confronti. Sì, rimane diciamo estremamente controverso, nonostante diciamo l'amministrazione abbia riemesso il divieto, il decreto, l'editto, comunque lo si voglia chiamare, cercando di ovviare ai problemi legali che il divieto originale aveva creato, cioè i sospetti, alti sospetti, elevati sospetti di incostituzionalità, per superare quindi diciamo così l'ostacolo delle corti. Ma la polemica politica, e non solo politica, resta alta. Oggi le Hawaii sono diventati comunque il primo stato americano a ripresentare ricorso in tribunale per bocciare, per chiedere che venga bocciato anche questo secondo editto di Trump contro gli immigrati islamici, che ricordiamo blocca i visti ai cittadini di 6 paesi islamici, tra cui l'Iran, la Siria e la Libia, però diciamo così non ha più valore retroattivo, cioè solo i nuovi visti per un periodo di almeno 3 mesi. Blocca però anche i programmi dei rifugiati, e questo forse è ancora più significativo. Senti, per chiudere, Marco, vedo che ci sono problemi anche con la Corea del Nord. Si parla molto della Corea del Nord nelle ultime settimane, anche per questo omicidio misterioso del fratellastro, no, del presidente della Corea del Nord. Però anche gli Stati Uniti hanno, insomma, temono possibili diciamo interventi imprevedibili di questo controverso presidente, diciamo così, dittatore della Corea del Nord, tanto che hanno chiesto al Consiglio di Sicurezza dell'ONU di non prendere la situazione alla leggera, vedevo. Sì, c'è sicuramente preoccupazione, e peraltro è emerso negli ultimi giorni che l'amministrazione Obama uscente aveva avvertito l'amministrazione Trump entrante che proprio la Corea del Nord sarebbe stata la sfida forse più urgente, proprio per la difficoltà di tenere sotto controllo il regime di Pyongyang. Ecco, questo avvertimento era caduto un po' nel nulla, viste diciamo le priorità dell'amministrazione Trump di America First e diciamo i grandi litigi su cui poi si è concentrato Trump proprio contro l'intelligence, contro parti dello stesso apparato governativo americano, e trascurando forse quelle che invece erano le preoccupazioni diciamo di più ampio respiro a cui avrebbe dovuto dedicare un po' più tempo. È rimasta famosa così la sua discussione del test missilistico di Pyongyang, fatta diciamo tra bicchieri di vino e gamberetti in pubblico a cena nel suo resort di golf, tra gente che prendeva i selfie appunto di Trump e dei suoi consiglieri che così discutevano ridacchiando della minaccia di Pyongyang. Ecco, diciamo sicuramente non è stato un messaggio molto convincente, ecco, questo di Trump finora inviato alla Corea del Nord, se vogliamo trarre le conclusioni. Marco, proprio in chiusura, proprio pochi secondi, oggi so che anche negli Stati Uniti, naturalmente anche gli Stati Uniti hanno partecipato a questo sciopero globale, planetario delle donne. Mi pare che le stesse associazioni che avevano portato nelle strade migliaia di donne, non solo il giorno dopo l'elezione di Trump, anche oggi, no, dovrebbero aver diciamo riempito abbastanza le piazze, le strade. Sì, ci sono state dimostrazioni anche con qualche polemica sull'utilità dell'iniziativa, ma hanno avuto un contenuto anche politico, proprio nuovamente anche in funzione anti-Trump. Su tutte, a New York, a Manhattan, le 4 fondatrici della marcia delle donne di Washington sono state arrestate davanti alla Trump Tower dalla polizia, proprio perché si erano sedute, hanno organizzato un sit-in in strada appunto sulla Quinta Avenue, e appunto oggi pomeriggio sono state poi arrestate dalla polizia. Grazie Marco Valsani da New York, ciao Marco. Grazie a voi. Buona giornata, visto che è quasi iniziata per lui un po' più avanzata, a tra poco. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Notizie che vi ricordo brevemente sono questo provvedimento dell'Italia per attirare gli stranieri ricchi nel nostro paese, una tassa fissa, la flat tax di 100.000 euro per risiedere in Italia, la norma è operativa da oggi ed è annuale. Stati Uniti, ne abbiamo appena parlato, dopo l'annuncio di Wikileaks è stata aperta un'indagine federale sulla fuga di documenti dalla CIA, immigrazione, critiche dall'Unione Europea sui migranti, Gentiloni che risponde, neanche il mago Merlino riuscirebbe a gestire questa situazione, ne parleremo tra pochissimo e poi la giornata internazionale delle donne, scioperi e manifestazioni in tutto il mondo. Il presidente Mattarella chiede una società più equa a partire dal femminicidio come emergenza sociale. Oggi abbiamo parlato di questo inedito 8 marzo con questo sciopero planetario. Non seminiamo illusioni, ma sappiamo che su questa strada, per quanto impervia e rischiata, possiamo ottenere gli unici risultati che oggi ci consentano non di cancellare il tema dell'immigrazione, perché non lo cancella neanche il mago Merlino, ma per regolare i flussi e gradualmente sostituire l'immigrazione clandestina, irregolare, micidiale per i migranti e per il traffico che vi ruota attorno, con flussi e canali più accettabili, più ridotti, più regolati. Neanche mago Merlino riuscirebbe a gestire questa situazione. A proposito di immigrazione e delle bacchettate che ancora arrivano dall'Unione Europea nei confronti dell'Italia, che dice l'Unione Europea, il sistema italiano di custodia dei minori migranti non accompagnati non funziona, gli hotspot, questi luoghi di prima, diciamo, accoglienza dove restano i migranti, sono inadatti alle loro necessità, soprattutto dei minori, un sistema dei rimpatri debole, dice l'Unione Europea, rischia di incoraggiare più arrivi. Ne parliamo con Matteo Villa, ricercatore ISPI per l'area Europa dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Buonasera Matteo. Buonasera. Siamo sempre ai soliti rapporti, diciamo così, complessi tra virgolette tra Italia e Europa a proposito di immigrazione, bacchettate spesso e volentieri, però pare che insomma tutta quella cooperazione che ci doveva essere, non so a che punto è. È verissimo, però Roberto, permettimi, ti bacchetto io, perché in questo caso non è l'Unione Europea ma il Consiglio d'Europa. Il Consiglio d'Europa, che è lì vicino, scusami. Ma certo. Esatto, ma non è l'Unione Europea. La bacchettata ci è arrivata settimana scorsa l'Unione Europea e, se volete, è simile, perché ci avevano detto i rimpatri non funzionano, rafforzateli. Cioè la Commissione Europea, che per 2 anni fa non avremmo mai pensato che ci proponesse un sistema all'australiana, no, di rimpatri più veloci o di detenzioni all'interno dei sistemi di diciamo di identificazione ed espulsione, che adesso non si chiameranno più così, però insomma più lunghi, mentre l'Italia stava andando verso detenzioni più brevi, anche perché è provato che o si espellono le persone nei primi 3 mesi oppure non si espellono perché non c'è il consenso del paese di origine del migrante. Insomma, questa Commissione Europea invece ci propone di allungare le detenzioni fino a 18 mesi e questo va nel senso contrario rispetto a 2 anni fa, quando invece si chiedevano misure di solidarietà a tutti i paesi europei. Insomma, la stessa Commissione Europea che prima chiedeva a tutti gli stati di fare il loro, adesso dopo tante porte chiuse in faccia si sta un po' allineando sugli stati più cattivi nell'Unione Europea, quelli che non vogliono solidarietà ma respingere. Tra l'altro è proprio di questi giorni, no? Questa decisione dell'Ungheria ha varato una legge che prevede anche il carcere per i richiedenti asilo? Questo è un altro di quelle diciamo cose problematiche dell'Unione Europea, ve ne sottolineo un'altra. Pensate che da ormai 1 anno e mezzo che la stessa Germania chiede che le persone che sono arrivate irregolarmente, che adesso non hanno ottenuto diritto d'asilo in Germania, dalla Grecia e che sono state identificate, si possa rimandare in Grecia. Praticamente è quello che dovrebbe funzionare sempre, però siccome in Grecia il sistema di accoglienza, diciamo, ha un po' di falle, fa acqua da tutte le parti, è dal 2011 che non si può fare. La Commissione Europea diceva no, non si può fare, eppure invece si sta allineando sempre di più verso la Germania. Addirittura pareva che nei prossimi giorni si sarebbe potuto esprimere a favore di questi rimpatri, che sarebbero decine di migliaia di persone da rimandare in Grecia, Grecia che sta un po' esplodendo perché 60-80 mila persone sono lì e aspettano di poter passare e non possono perché i confini sono bloccati. Quindi diciamo, Matteo Villa, che nonostante insomma se ne parli da tanto tempo, questo problema continui e la gestione diventi sempre più difficile, non si riesce proprio ad arrivare a un punto di svolta. Se questo è complesso, è vero, siamo stati lasciati un po' soli. Devo dire che l'Italia in questo momento si sta muovendo. Si sta muovendo un po' a spizzichi e bocconi, prendendo alcune misure che sono criticabili, per esempio quella con gli accordi di paesi diciamo di transito, di origine di questi, dei migranti, per rimandarli indietro velocemente, a volte tutti in blocco, che non è una cosa che per il diritto internazionale si dovrebbe fare, però insomma cerchiamo di farla diciamo nei limiti della legge. E però sta cercando di fare qualcos'altro. A mio parere Gentiloni oggi ha detto una cosa giusta, che è quella di cercare di contrastare l'immigrazione irregolare offrendo misure legali. Al momento praticamente non ce ne sono, salvo, sapete, i decreti flussi, oppure i vari, diciamo, le misure per gli stagionali, quelle che vengono a fare precedente in Sicilia. E chiudo, secondo me sarà importante seguire il piano integrazione che è stato annunciato dal Ministero dell'Interno.